l'eco del silenzio. Un'idea di Lucia Cappellucci. Buongiorno a tutti e benvenuti all'Eco del Silenzio da Lucia Cappellucci. Questa settimana iniziamo subito con due buone notizie. La prima è un'email che mi è stata inviata da Greenpeace Italia il 7 marzo 2012, dato che avevo firmato la petizione Mai più Costa Concordia per ottenere il decreto sulle rotte a rischio. E ve la leggo. Ciao Lucia, l'abbiamo chiesto e l'abbiamo ottenuto. Grazie alle mail di 34.571 cyberattivisti come te, il decreto sulle rotte a rischio è stato emanato dal Ministro dei Trasporti Passera in collaborazione con il Ministro dell'Ambiente Clini. Il decreto garantirà che disastri come quello della Costa Concordia non minaccino più aree protette. Dal 1 marzo 2012, navigazione, ancoraggio e sosta per tutte le navi merci e passeggeri di stazza superiore alle 500.000 tonnellate saranno vietati in una fascia di mare che si estende per 2 miglia marine dai limiti esterni di parchi e aree protette a livello nazionale, sia marine che costiere. Non è tutto. Tra le norme, ce n'è anche una che riguarda il santuario dei cetacei, dove il triste naufragio della Concordia è accaduto. L'obbligo di specifici sistemi di ritenuta di carichi pericolosi per tutte le navi in transito nell'area, ricca di balene e di delfini. È in assoluto la prima importante misura di tutela per un santuario che da anni chiediamo venga seriamente protetto. Ha vinto la difesa del Mediterraneo. La vittoria è di tutti voi che avete partecipato attivamente a questa campagna, aiutandoci a fare pressione sul ministro. Grazie! Il nostro lavoro naturalmente non finisce qui, è ora di pensare a come proteggere il santuario al 100% e come rimuovere il relitto della Concordia ancora lì, di fronte all'isola del Giglio a minacciare il fragile ecosistema marino. Abbiamo più che mai bisogno di te, sosteneteci subito. E poi passiamo alla seconda buona notizia, sempre riguardante l'ambiente. Da www.eilmensile.it, Giappone, gli ambientalisti chiudono la stagione di caccia alle balene del 9 marzo 2012. Finisce in anticipo per il secondo anno consecutivo la stagione estiva di caccia alle balene nell'Oceano Antartico. La flotta giapponese, che definisce questa caccia scientifica, è stata costretta a battere in ritirata dopo che la nave mattatoio Nissin Maru è stata rintracciata e ostacolata dalle navi di protesta degli ambientalisti di Sea Shepherd. Attualmente le navi di Tokyo stanno tornando in patria tra l'esultanza degli ambientalisti. Da quando la nostra nave, Bob Barker, ha aggiunto la Nissin Maru il 5 marzo, la stagione di caccia si è di fatto conclusa, ha dichiarato Paul Watson di Sea Shepherd. L'agenzia giapponese per la pesca ha confermato che la stagione è stata dichiarata conclusa 3 giorni fa, dopo aver catturato 226 balene, meno del 30% della quota e una sola balena azzurra, malgrado l'obiettivo fosse quota 50 esemplari. Intanto, Sea Shepherd si prepara alla prossima stagione di caccia, se i giapponesi torneranno, infatti, il gruppo ambientalista ha annunciato che si presenterà con una flotta rinforzata composta da 4 navi, 2 elicotteri, 4 droni UAV e 120 volontari. L'eco del silenzio. Da www.vita.it. Internet, CONI 2012, campagna shock, del 9 marzo 2012 di Ottavia Spaggiari. 30 minuti sui bambini soldato, in pochi giorni raggiunti 30 milioni di visualizzazioni. È stata lanciata solo da pochi giorni, ma già si preannuncia come campagna virale dell'anno. Sembra proprio che con CONI 2012 la non profit americana Newell Children abbia fatto centro, riuscendo l'impresa più ardua a richiamare l'attenzione del grande pubblico statunitense su un problema che non ha un impatto diretto sugli Stati Uniti. Basata su un serratissimo documentario di 30 minuti, scritto e diretto dal regista e cofondatore dell'organizzazione Jason Russell, CONI 2012 intende sensibilizzare l'opinione pubblica sulla terribile questione dei bambini soldati in Uganda e chiedere un impegno concreto da parte del governo americano, rendendo pubbliche le nefandezze di Joseph CONI, il militare ribelle ugandese a capo del Lord's Resistance Army, LRA, un gruppo di guerriglia armata che per oltre 20 anni ha commesso violenze gravissime contro la popolazione civile, allo scopo di stabilire un regime teocratico nel paese. Si stima che siano oltre 30.000 i bambini rapiti dall'esercito di CONI e ridotti in schiavitù. Nel 2005 la Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato di cattura nei confronti del ribelle ugandese e nell'ottobre del 2011 gli Stati Uniti hanno inviato in Uganda un centinaio di consiglieri militari perché aiutino l'esercito locale a catturare i CONI. Nonostante l'indiscusso trionfo mediatico, CONI 2012 ha subito pesanti critiche per l'approccio eccessivamente semplicistico alla situazione ugandese, che rischia di essere ridotta a un accanimento contro il bad guy, ovvero il cattivo, senza prendere in considerazione la complessità del quadro politico, nel quale la campagna andrebbe ad agire. Amnesty International ha espresso preoccupazioni riguardo alle operazioni militari attivate per catturare CONI. Foreign Affairs ha sottolineato come CONI non rappresenti l'unico pericoloso leader della zona e, secondo Angelo Izzama, un importante giornalista ungherese, in questo momento la priorità non sarebbe la cattura del leader dell'LRA, che non si troverebbe nemmeno più in Uganda, ma la necessità di sviluppare progetti di assistenza per gli ex invisibili, quelli che negli anni più terribili della guerra civile, soprattutto dal 1999 al 2004, durante la notte cercavano rifugio nelle strade di Gulu per sfuggire all'Horse Resistance Army e che adesso vivono in condizioni di povertà estreme. Il portavoce di Invisible Children, Jedidiah Jenkins, ha definito le critiche alla campagna miopi, affermando che l'obiettivo del documentario di Russell è quello di sensibilizzare i giovani a preoccuparsi di una problematica percepita come molto lontana dalla loro quotidianità e che le semplificazioni sono funzionali a raggiungere il maggior numero di persone possibile. Fondata da tre giovani filmmaker americani, Invisible Children l'ha dal 2006 con il duplice obiettivo di promuovere i progetti di sviluppo in Africa e sensibilizzare l'opinione pubblica globale sul dramma dei bambini soldato. CONI 2012 risulta la campagna dell'organizzazione che fino ad ora ha riscosso più successo. Pubblicato su YouTube e Vimeo lo scorso 5 marzo, il documentario di Russell ha già registrato 30 milioni di visualizzazioni. Numerose celebrity hanno già dichiarato l'intenzione di appoggiare la campagna e si prevede che migliaia di persone parteciperanno alla notte di mobilizzazione globale indetta per il 20 aprile, quando a tutti gli attivisti del mondo verrà chiesto di tappezzare muri delle proprie città con manifesti di CONI 2012. L'eco del silenzio. Sempre da www.vita.it, un articolo firmato dalla redazione stessa. Lea. Più di 11.000 firme per il finanziamento dei LEA, del 9 marzo 2012. La petizione, promossa da decine di organizzazioni. Sono state consegnate il 1 marzo alla Camera dei Deputati, al Senato e ai Ministri della Salute e del Welfare le prime 11.455 firme e le prime 40 adesioni di personalità e di organizzazioni pubbliche e private alla petizione popolare sul finanziamento dei LEA. Livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria. L'obiettivo della petizione è ribadire la necessità di diffondere il più possibile le informazioni inerenti al diritto, già attualmente pienamente e immediatamente esigibile, alle prestazioni riguardanti LEA, ad esempio, centri diurni per i soggetti con handicap intellettivo grave e limitata o nulla autonomia, accoglienza e ricovero di detti soggetti nonché degli anziani cronici non autosufficienti e dei dementi senili. La raccolta firme continuerà fino al 31 dicembre 2012. Per informazioni, rivolgersi alla segreteria del Comitato Promotore e presso la Fondazione Promozione Sociale Onlus. L'eco del silenzio. Silenzio. Da www.vita.it. Egitto. Amnesty. Donne e i soprusi continuano. Del 9 marzo 2012. Attesa la sentenza per i test di verginità. Il verdetto atteso domenica 11 marzo nei confronti di un medico accusato di aver costretto una manifestante a subire un test di verginità mostrerà, secondo Amnesty International, se i tribunali militari egiziani sono pronti a risarcire le donne che hanno subito violenza da parte dell'esercito. Il 9 marzo 2011, almeno 18 donne che stavano manifestando in piazza Tahrir, al Cairo, vennero arrestate e portate in un carcere militare. 17 di loro vennero detenute per 4 giorni. Alcune di loro dichiarano ad Amnesty International di essere state picchiate, colpite con scariche elettriche e costrette a denudarsi, per poi subire un test di verginità ed essere minacciate di un'incriminazione per il reato di prostituzione. Prima di essere rilasciate, le donne vennero portate di fronte a una corte marziale e condannate a un anno di carcere con la condizionale per una serie di accuse pretestuose. In seguito, una di loro, la 25enne Samira Ibrahim, ha denunciato un medico militare. L'iniziale imputazione di stupro è stata fatta cadere e l'imputato deve ora rispondere di pubblica indecenza e di disobbedienza a ordini militari. Il processo per il test di verginità rappresenta una rara opportunità a disposizione dei militari egiziani per dimostrare che la tortura non resterà impunita e che anche gli appartenenti alle forze armate verranno chiamati a rispondere del loro operato. Per Amnesty International, i militari egiziani devono rispettare in pieno la sentenza del tribunale amministrativo che lo scorso dicembre ha messo al bando i test di verginità e devono garantire adeguata riparazione alle donne che li hanno subiti. Nell'ultimo anno la violenza contro le donne ha segnato lo svolgimento delle manifestazioni in Egitto. Dopo l'inaccettabile episodio del marzo 2011, niente di meno che tortura, le forze di sicurezza e l'esercito egiziano hanno compiuto pestaggi, torture, maltrattamenti nei confronti delle manifestanti, ha denunciato Asiba Haji Sharawi, vice direttrice del programma Medio Oriente e Africa del Nord di Amnesty International. Lo scorso dicembre, nel corso delle proteste di fronte alla sede del governo, in cui vennero uccise almeno 17 persone, due manifestanti vennero aggredite da militari, picchiate, gettate a terra, prese a calci e trascinate via. Azza Hilal, 49 anni, intervenuta per difendere un'altra donna che era stata semidenudata e picchiata, è stata colpita così violentemente alla testa, alle braccia e alla schiena, da essere costretta a un ricovero di 3 settimane. Soffre ancora le conseguenze del pestaggio, ha subito una frattura del cranio e ancora disturbi di memoria. Un mese fa ha presentato una denuncia contro il Consiglio Supremo delle Forze Armate. Il 16 dicembre, Gada Kalam, 28 anni, esponente del Movimento dei Giovani del 6 aprile, è stata picchiata e minacciata di stupro mentre stava prendendo parte a una manifestazione in piazza Tahrir. Dapprima i militari l'hanno circondata facendo gesti osceni e abbassando la chiusura lampo dei pantaloni. Poi l'hanno picchiata alla testa mentre stava soccorrendo un'altra manifestante che aveva subito un pestaggio. È stata arrestata e trascinata verso il palazzo del Parlamento. Una volta all'interno dell'edificio, ha continuato a essere picchiata e minacciata di stupro. Accanto a lei, altre 7 donne venivano picchiate, soprattutto sulle parti intime. Nonostante le scuse e le annunciate indagini da parte del Consiglio Supremo delle Forze Armate, sulla base delle informazioni in suo possesso, Amnesty International ritiene che poco o nulla sia stato fatto per dare giustizia e riparazione alle numerose donne che hanno subito violenza da parte dell'esercito e della polizia. Amnesty International ritiene che queste forme di maltrattamento e tortura siano attuate per sfruttare lo stigma associato alla violenza sessuale e di genere e siano usate per screditare, emarginare e dissuadere le donne dal prendere parte alla vita pubblica. Anche questa settimana siamo giunti alla fine delle nostre notizie silenziose e non posso che augurarvi frenetiche letture. I contenuti di questa puntata sono disponibili all'indirizzo ecodelsilenzio.blogspot.com. L'eco del silenzio. Un'idea di Lucia Cappellucci.